raccontare questo aneddoto. Noi abbiamo perso una partita con loro a Denver, proprio il primo dell'anno. La sera prima avevamo vinto e il giorno dopo abbiamo perso appunto a Denver, e Gallo è stato il migliore in campo, al punto che la nostra riunione del giorno successivo è stata praticamente imperniata tutta su Gallinari. Questo per dirle che impatto aveva avuto in quella partita. Stava giocando molto bene fino all'infortunio, aveva una grande possibilità anche perché la sua squadra sta facendo molto bene e lui è quello che si è messo probabilmente più in luce nella sua squadra di giocare lo Star Game. È un peccato, però credo che se continua così certamente non gli mancheranno le occasioni di partecipare allo Star Game. Andrea Bargnani è il leader top scorer dei Toronto Raptors, che certo però non sono una delle franchigie di più alto livello dell'NBA. Una domanda, una mia curiosità, coach: non è che troppe stagioni, diciamo, con un'intensità agonistica tutto sommato diluita, perché gli obiettivi a Toronto sono quel che sono, non possano alla fine nuocere sotto alcuni aspetti ad Andrea? Probabilmente per crescere e direi fare il salto definitivo, un giocatore che è già bravo come Andrea, probabilmente credo che sembra la necessità di misurarsi a livello più alto, nel senso che magari giocare in una squadra che gioca per il titolo. Io credo che lui ne abbia tutte le possibilità, e a questo punto probabilmente tutto è collegato a temi contrattuali, cioè a vedere quando al contratto che lui ha in essere con Toronto, se avrà la possibilità di essere firmato da una squadra che lotta per il titolo. Forse lui dovrebbe sperare di essere coinvolto in un cambio importante e finire in una squadra che possa giocare per il titolo. Sinceramente glielo auguro di cuore, perché credo che mi abbia tutte le possibilità. Per Marco Bellinelli, una mia piccola provocazione, ma mi interessa il suo parere: non sarebbe forse il caso di tornare nel vecchio continente per monetizzare, non solo dal punto di vista economico ma anche in termini di esperienza, quanto fatto sui campi d'oltreoceano? Perché mi sembra che faccia fatica a starci al di là delle cifre. È vero, però se vuoi che dica, ha tutta la mia ammirazione, perché mentre per gli altri due che sono stati scelti, diciamo, a un livello molto alto dalle rispettive franchigie, è stato tra virgolette più facile entrare nel meccanismo e nel circuito una volta che appunto hanno avuto un contratto importante, lui ha veramente avuto la necessità di sgomitare, di lavorare, di farsi trovare pronto, di vincere molte sfide, e il fatto che riesca tutto sommato a rimanere, soprattutto giocando anche molti minuti in una franchigia, anche se è una franchigia in questo momento che sta ottenendo risultati scadenti, secondo me la dice molto sulla personalità di questo ragazzo. Apprezzo il fatto che appunto non abbia scelto la via più comoda, che sarebbe quella di tornare in Europa, guadagnare di più e magari giocare molti minuti, e credo che abbia così, che sia anche un bel esempio per tanti giocatori che magari non hanno la voglia, la forza, il desiderio di mettersi in gioco continuamente.